Ciao! Io sono Laura Voltolina e questa Podletter è il ritornello di una bella canzone. Oggi ti porto con me in un retreat yoga di 3 giorni. Devi sapere che io lavoro sviluppando temi specifici e ogni tema prevede attività diverse nei contenuti. Quindi ogni ritiro che guido è diverso dagli altri. Ma c'è una struttura stabile che si ripete, un po' come il ritornello di una canzone bella. E oggi ti racconto cosa succede durante un retreat yoga. Il ritornello, insomma. Venerdì. Arrivi. Di solito in Toscana, perché da più di 10 anni i miei retreat trovano casa lì. Anche se in passato ho viaggiato molto con loro in Italia e in Spagna. Ti consiglio di arrivare dopo pranzo, così hai tempo di ambientarti, decomprimere dopo il viaggio, conoscere le persone con cui condividerai il tempo e lo spazio. Magari ti fai un bel bagno in piscina, una passeggiata o 4 chiacchiere. Nel tardo pomeriggio ci incontriamo in cerchio e apriamo lo spazio. La pratica inizia. Chiarisco subito un fraintendimento diffuso. Quando dico pratica yoga, la maggior parte delle persone pensa esclusivamente alle asana, alle posizioni. Ecco, durante il retreat scoprirai che pratica è tutto. Tutto quello che succede, tutto quello che facciamo, tutto quello di cui ci nutriamo, che sia cibo, biologico per la cronaca, energie, scambi, pensieri, allungamenti, condivisioni, sogni, amicizia. Nelle asana e nei movimenti propongo sempre tantissime varianti, così l'esperienza è accessibile a chiunque. Da me trovi insegnanti di yoga accanto a chi ha il suo debutto nello yoga e tutte e tutti trovano ispirazioni utili. Dopo il primo incontro sarà bello cenare insieme al resto del gruppo. L'attività dopo cena, il venerdì sera, prevede sempre anche un rilassamento profondo per depositare la giornata e prepararci a un sonno rigenerante. Sabato. Meditazione libera prima di colazione. E per libera intendo libera davvero. È un silenzio condiviso, punto. C'è chi medita, chi fa stretching, chi preferisce dormire un po' di più. Ogni scelta è benvenuta. Dopo colazione, il secondo incontro di gruppo con le attività e i contenuti legati al tema centrale del retreat. A seguire c'è tempo libero, quindi puoi nuotare, leggere, fare un'escursione da sola o da solo in compagnia, startene in tranquillità. Questo è il momento in cui offro sessioni individuali di Thai Yoga Massage per chi lo desidera. Poi c'è il pranzo condiviso, ancora tempo libero o Thai Yoga Massage e nel pomeriggio c'è la terza sessione di gruppo e questo è un momento speciale. È passato un giorno, ma ti senti rigenerata, rigenerato e c'è un particolare senso di familiarità nel gruppo. Un po' perché la pratica insieme mette radici e un po' perché chi arriva allo stesso retreat in qualche modo si somiglia già. Dopo cena chiude la giornata l'attività serale specifica a seconda del tema del retreat. Domenica, come il sabato, meditazione libera, colazione insieme e incontro conclusivo insieme. Il retreat si completa col pranzo domenicale. Molte e molti partono dopo pranzo, ma se vuoi puoi arrivare in struttura prima del retreat o restarci ancora dopo che avremo finito, basta accordarsi. E poi i semi piantati durante i retreat iniziano a germogliare ed è una delle cose che amo di più del mio lavoro. Vedere come fioriscono quei semi. Ricevere feedback, sentire le trasformazioni, riconoscere la complessità e la meraviglia del processo umano. Perché sì, siamo complesse e complessi, siamo sorprendenti e capaci di cambiamento. Questa è la struttura che trovi anche in centrare gli obiettivi allineando intuizione, emozioni e consapevolezza. 3 giorni di yoga retreat in Toscana dal 4 al 6 luglio. Ogni attività, cioè la pratica come la intendiamo noi, è costruita apposta per rendere spontaneo e armonico centrare gli obiettivi unendo questi 3 centri vitali. Intuizione, che sa orientarsi senza prove. Emozioni, che forniscono energia e direzione, e consapevolezza, che permette di vedere se stesse e se stessi in modo autentico. Proprio quello che faremo durante il retreat. C'è posto per chi è esausta o esausto, per chi ha sbagliato mira, per chi è curiosa, curioso e sente di avere molte più potenzialità di quelle che esprime. E c'è uno sconto solo per chi riceve questa newsletter e solo fino al 10 giugno o a esaurimento posti. Il retreat, tutto compreso, è a 320 euro anziché 360. Vieni anche tu? Scrivimi! Le parole che ho scelto per noi oggi sono di Rupi Kaur dalla sua raccolta Home Body. Sei una. Un mondo, un portale, uno spirito. Non sei mai in solitudine. Sei organi e sangue, carne e muscolo. Una colonia di prodigi intrecciati. Un abbraccio, Laura.